Se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Ti sto offrendo solo la verità. Ricordalo, niente di più. Ma l'ex presidente del Consiglio, la notizia di stasera dovrebbe che i 5 Stelle vogliono prendere tempo, all'agricoltura, che è il lavoro più nobile che ci sia. I 5 Stelle prendono tempo. Zappare la terra per il presidente del Consiglio Renzi probabilmente è la roba più nobile che potrebbe fare, e per il bene dei cittadini italiani. Questo Parlamento dicono tutti che sono cristocentrici, perciò il nostro maestro ci insegna prima il bene della collettività e poi il bene nostro. E quanti cristocentrici veri ha visto lei? A parole tantissime, nei fatti non lo so. Io penso che prima dell'autunno non si vota. Perché proprio l'autunno? Anche... E perché? E perché? Perché lo sai. Che se ne dica, tutti aspettano quella data, anche il Movimento 5 Stelle. Anche quelli? Sì. Ai. Fanno finta di far la guerra, però facciamo tutta la pace. E se lo dice Antonio Razzi, che si aspetta la data del vitalizio? Beh. Direi che se lo dice lui, che è un... improbabile. Improbabile, caro De Luca, qui mi permetto di dissentire. Non è improbabile, perché se lo dice Antonio Razzi, fidati, caro Vincenzino, qua mi sa che vuol dire che ne sa qualcosa lui, Si attende il vitalizio in una botta subito, così, e certo, in una botta sola. È la prima legislatura, quelli che fanno la prima legislatura, pam, subito. Che ti devo dire, signori, è venerdì, ma che meraviglia, alle 6:34 minuti è venerdì. Dai, lo so che state andando a lavorare, vi siete svegliati con un piglio diverso, sapendo che oggi è venerdì. Qui c'è Peter Bescapè, regia, è tornato dopo aver ceduto per un attimo a Carmelo Lauricella ieri il comando. Autocontrollo. Sempre, sempre, anche se non rispondono gli ospiti che abbiamo convocato alle 6:30, uno almeno, sempre. Siamo veramente alla barbarie. un po' sì. C'è Lorenzo Nespoli in redazione là che combatte al telefono. Quando vedete Lorenzo Nespoli, semmai potete vederlo, non... è una bella vista, care donne, tra l'altro. Vabbè, comunque, se voi vedeste Lorenzo Nespoli prendere la cornetta del telefono a quest'ora, quando lo fa vuol dire che c'è un problema. Intanto voglio salutare un grandissimo, oggi io, caro Vincenzo, caro Vincino, buongiorno. Buongiorno. Come stai? Dove stai intanto, nelle tue numerose case? Sto a Roma, no? A Roma, numerose case, non ti vergognare, una a Roma. Una a Roma e una a Palermo, vabbè. Palermo, quasi, Mondello. Proprio. Mondello. Se proprio dobbiamo essere precisi. Mondello. Mondello, mica Catania, Messina, no. Una casa a Catania o a Messina, hai mai pensato di prenderla? Ma assolutamente mai. A Catania, dai, no. A Catania sì, dai. Ma qual è la più bella dopo Palermo? Catania o Messina? Trapani. Trapani. Trapani. Trapani, Trapani è bella. Trapani è, Trapani è molto bella. San Vito Lo Capo, c'è poi Erice, Monte. Poi San Vito Lo Capo, bello, no? Su. Poi c'è il posto. Vabbè, molto bella. Molto bella, molto bella. Vabbè. Dai, tutta la Sicilia è bella, poi diciamo, dai, sì, anche Catania c'ha quell'Etna enorme, stupendo. Non... Ti piace l'Etna di Catania? Ti piace l'Etna di Catania? Meraviglioso. Allora c'è Marco da San Pellegrino Terme che in maniera un po' cattiva anche mi dice: almeno stamattina salutami, no? Con tre punti esclamativi. Marco da San Pellegrino Terme, buongiorno, buona giornata anche a te. Allora, io ho già trovato il mio mito di oggi, caro Vincino. Allora, apriamo il Parlamento perché ti devo raccontare la storia di un... Allora ragazzi, se uno esce per prendere un caffè e gli state sopra così, io vi voglio bene, ma... Forza, forza, di un ex Ghisa. Sai chi è il Ghisa? Sì. Anche tu che frequenti... Vigile urbano. Esatto, 70 anni. È stato un Ghisa, un vigile urbano a Milano, che è stato ricoperto di encomi, elogi, una professione straordinaria, eccetera. Poi è successo qualcosa. Quando si è messo in pensione, ha iniziato a guardare la TV, tutti questi talk show in cui c'è quello che urla, c'è quello che dice una roba, ha iniziato a salirgli un rancore, a salirgli un livore, a salirgli un qualche cosa per cui doveva regolare i conti. Allora sai cosa ha fatto? Ha mandato insieme alla compagna in questi anni 10.000 lettere con carta igienica sporca di merda. A tutti! Era il suo modo per dire: vergognati! Basta! Prenditi questo! L'hanno arrestato. E quando l'hanno beccato, i carabinieri dicono: ci ha quasi ringraziato, l'abbiamo liberato da un'ossessione che aveva, montagne di carta igienica che spediva al mondo. Beh, è bella come forma di... Stupendo, assolutamente. Dice che si è ispirato a Jacopo Fo. Jacopo Fo che ha raccontato che nel Medioevo ci fu una rivolta popolare con letame sugli aristocratici. E quindi lui ha fatto così. Vabbè, caro Vincino, allora... Ma l'altro non c'era. No, l'altro non c'era. Allora, guarda, l'abbiamo subito sostituito. Avevamo un senatore del Partito Democratico, Stefano Esposito, del Partito Democratico, appunto. Allora abbiamo chiamato il nostro Maurizio Bianconi, che tanto, buongiorno, si sa, il venerdì non ha niente da fare alla Camera. E ribongiorno Bianconi. Sono qui che lavoro. È qui. Vincino, ma tu lo sai che ci ha detto che ieri alla Camera non è andato, tanto c'erano solo i fancazzisti alla Camera. Tu, Vincino, sei sempre alla Camera, puoi confermare? No, non ci sono andato, manco io. C'erano solo i fancazzisti. C'erano solo i fancazzisti. Quindi il giovedì i fancazzisti. Venerdì ha detto: venerdì devo fondare, dobbiamo fondare un altro partito. Ma lei ci ride? No, non ci rido, però insomma... E qui tutta la notte che lavoro. Tutta la notte, perché giustamente, Vincino, abbiamo bisogno di un altro partito. Ci vuole un altro partito. Un altro partito ci vuole perché c'è un buco, sì, che c'è un buco. È come nel calcio, quando c'è buchi mi ha riempito. Vincino, ma tu hai notato buchi in Parlamento? Ci vuole... No, se ci viene li noti buchi. Siamo sempre su 400 invece che 600, quindi i buchi li vede. No, sì, certo, no. Ma Vincino, che partito manca secondo te in questo momento? Ma non lo so, manca un partito di buon senso grosso, manca assolutamente, ne mancano parecchi, devo dire, c'è un disastro per ora totale, mancano... Guarda, la cosa politica attuale è proprio una cosa pazzesca, guarda, come una desolazione che non so, dagli anni 50 non si vede, ma non lo so, era prima ancora, non lo so, era un proprio... Vabbè, ma te da quando mancano i radicali sei un po' perduto. Ma i radicali ci sono sempre, non è che i radicali anzi fanno più politica meglio fuori che dentro tante volte, non è che la fanno bene anche dentro, però insomma non... Però non ci sono dentro, sono sparsi nei partiti. Per ora sono sparsi nei partiti. No, sì, però allora Bianconi ci aiuti a capire che razza di partito serve, cioè che cosa vuol dire un partito, ma se tutti i giornali raccontano che con questa legge elettorale ci saranno tutti i partitini, i partitelli, si torna indietro di vent'anni. Questo è il motivo di fatti per cui lui lo fonda. Lui lo fonda per quello, infatti. Esatto. Bianconi ci dice: Milan, è un affare più serio, è Mattina, non so. Noi diciamo che manca un partito, che è quello che dice Vincino, cioè il partito del buonsenso. Noi abbiamo avuto un... E Paolo Serio, posso 30 secondi? Ma certo, ma come no, ma certo. Noi abbiamo avuto un fenomeno che si è sviluppato poche volte in Italia. Un partito che aveva il 40% in tre anni si è mangiato 14 o 15 milioni di voti. Che sarebbe Forza Italia. Sì. Perché secondo noi... Secondo noi, sì, quel partito non ha mantenuto fede agli impegni che aveva preso, e cioè di fare opposizione al centro-sinistra, cioè di fare una rivoluzione liberale, cioè di fare certe cose. E lo volete fare voi? E noi diciamo che vogliamo continuare quel discorso che loro non hanno fatto. Ma ho capito, ma Bianconi, ma obiettivamente, ma a quanto puntate? Cioè obiettivamente al 15%. Almeno al 15%. Ma dai, su. Perché anche Garibaldi quando partì da quarto vedevo un tutti. Ma, io non rido, vi stimo, ma il 15%. Ma non è molto, sa? Ma come non è perché molto? Non è molto, perché oggi i partiti sono piccoli, perché la gente a votare va la metà di quella che andava. Quindi il 15% sarebbe il 6-7%. E adesso arriva il partito nuovo, che non sappiamo ancora come si chiama, lo scopriremo nel weekend. Attenzione, ma non glielo posso. Non ce lo può dire. No. Vincino, ieri sera è finito lo, diciamo così, sì, brainstorming. È venuto fuori il nome, insomma, che a me non è che, insomma, non le piace Vincino, sono tutti registrati, mira. Su questo ha ragione. Vincino, Bianconi ci vuole convincere che ci sta dicendo che nasce un nuovo partito e ci vuole convincere che prenderà il 15%, e già il nome che non ci dice, non ci può dire, a lui non garba tanto, però ci sta dentro. Ma no, c'è il copyright, è già registrato tutto. Sì, chiaro. Esattamente. Chiaro. No, la verità è questa, si va a votare, Vincino, tu che aria vedi che tira? No, è chiaro che non si va a votare, dai. Ma come non no? Oggi, guarda, libero. Gentiloni ha già un patto con Renzi, si dimetterà. Tutti i giornali sono così, c'è il patto, si dimette. Allora, Renzi non controlla il suo partito, no? Renzi controlla il 10-15 per Renzi, con tutti i disastri che ha fatto, come dire, lui ancora non ha capito che è messo molto molto male, no? Addirittura, hai visto che l'intenzione di Renzi ha sbagliato tutto. Non è azzeccata una sola. Il segretario del PD sceglierà le liste. Ma il segretario del PD di che cosa? Cioè, lui è il segretario del PD per grazia ricevuta da quel disgraziato. Vabbè. Il ministro della cultura, no? Ecco qua. Quello controlla veramente il partito. Franceschini controlla tutto. No, perfetto. Tutto. Se Franceschini leva l'appoggio a Renzi rimane con un pizzo in coso, con pochi fiorentini e poca roba in giro per l'Italia. Questo è il punto. La vera eminenza Bianconi, io non sapevo, la vera eminenza grigia è Franceschini. Assolutamente, il cosa che tu hai detto all'inizio, che avete detto all'inizio, quello là del vitalizio. A settembre, non è una cosa così volgare. Se tu pensi che ieri l'Associazione Nazionale Magistrati ha fatto uno sciopero, non è andata, sciopero enorme, non è andata alla protezione, perché cosa? Per le loro pensioni, ultra ricche, meravigliose, per un anno più e meno delle loro pensioni, che vogliono fare come cavolo gli pare. No, per quello ieri Bianconi ci ha spiegato. Aspetta. Ho capito. Ci ha detto ieri Bianconi che sta roba del vitalizio è. Com'è che ce l'ha definita ieri Bianconi? Una cacata, qualcosa. Ecco, questa cosa però del vitalizio, c'è una contestazione. Ieri lei ce l'ha spiegata dicendo conviene di più prendersi lo stipendio, è lo stipendio quello che conta, no? Ma uno, se sta fino a settembre, somma stipendio eppure c'ha il vitalizio, quindi tutte e due. Sì, va bene, insomma. Va bene. Perché lei voleva sempre ragione per forza. Ma è così. Mentre la signora che c'era ieri è così. Ha detto una verità assoluta, Cioè c'è la gente che quando non è più deputato si mette lì a ciondolà tutto il giorno. Carla perché Rocchi, non sa, perché è vero, c'è una sorta di di sindrome di Stoccolma per la Camera, cioè è una cosa che l'ha provata e gli piace. Ciondolano lì, ma che fanno ciondolando? Parlano di politica, d'altro canto io quando smetterò di fare politica andrò al bar a parlare di politica, che volte faccio? Va lì al Parlamento, ma vada al bar al suo paese che è più a contatto, è più a contatto col con la vita reale. Vado al bar del mio paese a parlare di politica. Ah, al bar del paese? Certo, come facevo prima di essere deputato. Al bar del paese va bene. Se uno ci piace la politica... Ah, di benissimo. No, ma va bene. Il bar è la cosa più bella che è scomparsa, purtroppo. Esatto, ma al bar del paese, anch'io vado sempre al bar. No, vanno alla Camera, ci sono i soldi. Questo è il punto. Tutti i soldi dello Stato passano di là. Ma perché vanno lì? Allora io mi l'alto credito. Io dico, conosco tutti. E cosa vuoi passare questa legge qua? Adesso devo fare una dichiarazione d'amore ufficiale. Io vado al Carapina di Via dei Transiti a Milano. Questo è il gioco al fantacalcio. Lì bevo lì il caffè, sto lì, passo mezz'ora con gli amici. Il bar è bello, Invece uno va in transatlantico al bar, certo, a far che? Ma a far che? Non lo so. Guardi, ieri la signora che era ieri, che tanto per venire, ha detto la verità assoluta, è vero, è quello che ha detto, l'ha detto stanno lì, cazzeggiano, vogliono toccare un mondo toccare un mondo, è il loro mondo, secondo è loro, posso farti un esempio vero? Aspetta, andiamo al traffico, poi mi fai l'esempio vero, aspetta che devo andare al traffico. L'anno scorso chi è che ha vinto il campionato? La Juve. Chi è che ha vinto la Coppa Italia? La Juve. Automaticamente la Supercoppa era della Juve. Oh no! Milan, ma va c'è Pairadva, chi sa che è un problema in Italia in minghi politici, in cui i giornalisti come ti. Ma sti politici insomma hanno normalum. Sultellum, pensionellum, ma quando è che non approvano il cagarellum? Queste sono veramente solo ricostruzioni giornalistiche, come anche la fantomatica, la presunta telefonata con Grillo, non c'è mai stata, anzi è molto tranquillo. Immagino che tra un po' inventeranno che ho anche ucciso qualcuno, insomma, io... Povera Raggi, caro Vincino, povera Raggi. No, dici, che esempio ci stavi facendo? Che esempio? No, un esempio dell'influenza del... Allora, c'è un mio amico... che ha dei problemi con Equitalia, non sa come fare a andare a parlare con qualcuno là dentro, e allora uno gli dice: io conosco uno, un onorevole che era stato sotto segretario all'economia, e l'ha aiutato, che sta alla Camera, che è già in pensione, va là, ecco qua, tramite questo qua è andato a parlare dentro qualcuno con Equitalia, come... ha risolto tutto. Ha risolto un cazzo, assolutamente. Allora ha passato una mezza giornata, ha buttato via il tempo, ha offerto due pranzi, certo, e l'onorevole ha guadagnato due voti, si sentono importanti. No, l'onorevole sta fuori dalla politica, Bianconi, servite a risolvere un problema di Equitalia di un povero Cristo. Lei ci scherza, ma uno dei problemi veri dell'Italia è quello che ha detto prima Vincino, il livello che c'è adesso in politica, ma anche il fatto che ormai non serve più a niente, cioè praticamente conta più Corte Costituzionale, fa la legge elettorale, Cantone decide che si può fare e che non si può fare, l'Europa decide quanto si può spendere, però nessuno che dice beh effettivamente sto Parlamento non serve, non ci vado più, io lo dico, no. Uno l'ha detto, se lo segni, onorevole Nesi. Pare, che è uno scrittore, uomo piacevolissimo. Certo, il grande Nesi. Amico mio. A Toscano, detto, tu hai scritto i libri su Prato. Grande scrittore. Allora mi fai a ridare. Ma siete sicuro che si vota nel febbraio del 18? Sì. Oddio, un anno qui dentro, puttana Eva, come faccio? Così, quello negativamente ne ha pieni coglioni. ho capito, ma se ne vada. Ah no, è vero che non ti puoi manco dimettere oggi. Non ti avremo... puoi dimettere perché siamo noi che decidiamo. Oggi avremo ospite il senatore Vacciano, che per quattro volte ha cercato di dimettersi, ma l'aula del Senato rifiuta le dimissioni, gli vota contro. Caro Vincino, cioè, ma liberiamo questi carcerati. Facciamoli uscire, diamogli un po' di libertà, poverini, seduti lì, obbligati come nesi, dice, oddio, un altro anno qui, Vincino. Vabbè, ma come dire, questo Marciano era dei 5 Stelle. Era del 5 Stelle. E allora, come dire, era del 5 Stelle, viene sbattuto fuori, il resto del Senato ha pena per questi ex dei 5 Stelle, perché poi, allora, c'è anche quest'altra cosa, del ricatto di Grillo, noi abbiamo sotto il ricatto... tutti i 5 Stelle della Camera. Sì. Primo che dà interviste viene, non verrà ricandidato, addirittura il capo della commissione di vigilanza. Spara di più. Lui ha detto, no, se sbagli, se dai l'intervista senza essere autorizzato non ti ricandido. No. E questo non è un ricatto. Guardalo qui dove siamo arrivati. Pagina 7 del giornale, mezza pagina, poi la leggo la segna stampa. Paolo Cirino Pomicino, magari tornasse la Prima Repubblica. Ecco, bravo. Bravi, passi avanti, bravi, guardiamo sempre al futuro. Bene. Però vede Milan, lei fa così e dice così, chi ha ragione. Però chi ce la ripropina la Prima Repubblica, la politica, no, ce la ripropina la Corte Costituzionale. No, ma ancora sta cosa, se la Corte Costituzionale dice che fate le leggi elettorali ad minchiam, non è che è la colpa della Corte Costituzionale. Non sono angeli, non so, superiori, ma no, non è questione di angeli, sono ex deputati. Ma ho capito, oppure applicano la Costituzione. Cracchi lo definiva il ragioniere, come era? Aspetta, mamma mia, adesso mi fai litigare anche con quelli della Corte Costituzionale. Scusa, Amato, non è che viene fuori dal nulla. È un ex ministro parlamentare. Ma una che le ha fatte di tutti i colori. Eccolo lì. Ma sa assolutamente, Vabbè. No, comunque, Bianconi, capito? Non è adesso la colpa della Corte. 30.000 euro di pensione, Amato. Ma cosa c'è? Sono contento per lui. Scusi, Milanne. Ma lei mi sveglia la mattina, io mi faccio svegliare. E mi fa... Perché lei è tanto intelligente. Ma se dice le coglionerie, mi smette di svegliarmi. Come fa a dire? Come fa a dire una sciocchezza così? Non è che si fa fare. È che, indebolita a questo punto la politica, si aspettano i poteri sostitutivi. I poteri sostitutivi sono più teste di cazzo della politica. Cosa ci si deve fare noi? Che la Corte Costituzionale si prenda il lusso di decidere se in questo paese si vota con maggioranza maggioritaria o proporzionale in nome di una norma che ormai è 20 anni che non viene più seguita perché si vota il leader. Vuol dire che o non capiscono un cazzo o fanno finta di non capire un cazzo. Perché prima non ci sono svegliati? Cioè, c'è un motivo politico preciso. Insomma, c'è la volontà assoluta di rovinare definitivamente questo paese, perché ci vuole che questo paese sia rovinato. Meno male che nasce il nuovo partito che ci, come dire, tirerà su un po' il morale, caro Bianconi, e raccatterà il 15%. Va bene, dai, fermiamoci qui e ripartiamo da qui lunedì, però voglio sapere il nome del partito, poi me lo manda privatamente, giuro che non lo divulgo, giuro Bianconi, non lo divulgo prima che lei mi dia ordine di divulgarlo e di votarlo, va bene? Allora intanto vi devo ringraziare, Maurizio Bianconi e Vincino, alla prossima! Il segnale orario vi è offerto da... Legno Edilizia, Fiera di Verona dal 9 al 12 febbraio. È arrivato Milana Lino. Legge, commenta, spoglia, combattute piccanti. È arrivato Alino Milan, l'arrotino della comunicazione. 24 mattino. Signori, alle 7:19 minuti si chiude la 195esima settimana decisiva per l'abolizione delle province, nonché la settima decisiva per la riforma elettorale. Siamo ripartiti qui a contare. Nello spazio dedicato alla lettura dei giornali, questa è la rassegna stampa di 24 mattino. Dai che è venerdì, caro Peter, avanti! 1, 2, 3, anche che è venerdì! Allora, ed è venerdì 27 di gennaio, con i titoli che andiamo a sfogliare, le prime pagine, alcune. Il Sole 24 Ore apre su privatizzazioni per Poste, nuova quota sul mercato. Rilancio entro il 2017 anche per la quotazione delle Frecce, le ferrovie dello Stato. Poi l'apertura del Corriere della Sera è dedicata invece al terremoto, lite con l'Europa. Moscovici dice fuori dal negoziato le nuove spese, ma il governo replica non ci fermiamo. Repubblica su questa un'anticipazione che sarebbe abbastanza clamorosa se confermata. Europa, il piano B del governo, no alla manovra se voto a giugno. Questa sarebbe la strategia del governo. A proposito di voto, guardate qui, effetto consulta è paralisi, questo è il titolo del giorno. Mentre il Fatto Quotidiano, il Porcellinum, tre deputati su quattro nominati dai capi e non eletti. Libero invece definisce la folle corsa alle urne, Renzi è fuori come un balcone. Questo è il titolo di prima pagina. La Stampa invece sulla Raggi, mi imposero le nomine. Questo è il titolo dedicato al sindaco di Roma. Ognuno fa una scelta diversa. Avvenire, altri muri di Trump, tasse e liste nere. Mentre l'apertura del quotidiano La Verità, tutti i paradisi fiscali dei renziani. Indagano due procure a partire dagli attentati contro Andrea Bacci, l'imprenditore vicino a Renzi, che portano gli inquirenti ad accendere i riflettori sull'amico dell'ex premier. Si parla di intrecci societari, si parla di basi in Lussemburgo, Cipro e Panama, questo nell'apertura del quotidiano La Verità. Invece il Messaggero, processi show freno ai PM, è la bacchettata del presidente della Cassazione ieri. Ma come vedete ci sono tante notizie, voglio partire da una che, pur essendo venerdì, certo non ci tirerà sul morale. Partire da quello che ha detto il rapporto Eurispes ieri, e cioè un giovane su 10 torna dai genitori per non pagare l'affitto, un italiano su 4 si sente povero, è giustamente ciò che l'Unità mette in ampio rilievo a pagina 6, l'emergenza sociale. Un italiano su 4 si sente povero. Perché parto da questo? Perché mi hanno colpito due notizie legate al mondo del lavoro, le trovate sul Giorno, ed è questa, un'intervista e una notizia. La notizia è quella che proviene da Palermo, è l'iniziativa della Confartigianato di Palermo col suo presidente Nunzio Reina, che ha voluto rilanciare l'idea dello shusha, illustra scarpe, questa professione resa celebre anche dal capolavoro di Vittorio De Sica del 46. E, bene, Palermo rispolvera illustra scarpe. Cosa succede? Ora gli shusha sono laureati. Ebbene sì, perché c'è il bando che prevede un corso di formazione per 15 selezionati, hanno risposto in 63, ieri i primi colloqui hanno partecipato in 28, gli altri 35 saranno ascoltati il primo febbraio. E cosa chiede la Confartigianato? La disoccupazione come prerequisito e tanta buona volontà. E tra i candidati ci sono anche laureati, voi dite, per fare illustra scarpe. Beh, in una situazione di difficoltà, per esempio, c'è un'intervista del Giorno a Concetta Zummo, giovane siciliana piena di sogni, che come tante sue coetanee però si deve scontrare con l'arrangiarsi, il dover cercare di recuperare delle professioni per far quadrare lo stipendio alla fine del mese, e quindi si è presentata a questa selezione. E questo mi ha colpito. Insieme c'è un'intervista al sociologo Domenico De Masi, che viene intervistato a pagina 9 del Giorno, sempre da Matteo Palo, e fa una provocazione, che era poi il titolo del suo ultimo libro. Vale a dire, lavorare gratis, lavorare tutti, questa è la provocazione. Avete sentito bene, lavorare gratis. Lavoriamo meno, ma lavoriamo tutti. Questo chiede e propone Domenico De Masi. Quello che propongo è che i disoccupati, sentite bene, comincino a lavorare gratuitamente per un periodo breve di un paio di mesi. I disoccupati lavorino gratuitamente. Servirebbe una sorta di Uber che mi consenta di avere un falegname gratis quando ne ho bisogno. Questo spaccherebbe il mercato degli occupati e finalmente chi ha lavoro si vedrebbe costretto a cedere una parte della sua attività. In questo modo il lavoro sarebbe distribuito su una base più ampia, perché, dice De Masi, oggi ci sono 2 milioni di manager che fanno straordinari non retribuiti, togliendo lavoro dal mercato. In questo momento abbiamo 23 milioni di persone che lavorano almeno 8 ore al giorno, orari che sono gli stessi di 80 anni fa, nonostante lo scenario sia diverso. Propone allora De Masi, dovremmo lavorare meno, scendere a 35 ore lavorative alla settimana e allargare il numero dei lavoratori. Non lo so, lui è un sociologo, è esperto di lavoro da anni, mi sembra un po' questa la comune del lavoro, lavorare tutti un po' meno per permettere di lavorare una platea un po' più ampia di persone. E questa provocazione dice lavorino gratis i disoccupati, sarebbe così, suona come una contraddizione in termini, per poi allargare la platea dei lavoratori. Va bene, questa è la proposta del sociologo De Masi, mentre la proposta del governo e del ministero insieme alle regioni riguarda la questione tanto dibattuta dei vaccini. Si va con idee condivise verso una legge sui vaccini a scuola. C'è un accordo, così giurano i giornali, e cioè quella di rendere obbligatoria, reintrodurre l'obbligo di vaccinazioni per coloro che vogliono iscriversi a scuola. E tra le regioni più critiche, la Lombardia. La Lombardia, abbiamo avuto anche ospite il presidente Maroni in passato, essere un po' scettico sotto questo punto di vista, di non si può imporre la vaccinazione, bisogna essere un po' più democratici nel rispettare chi non la vuole far fare ai propri figli. La Lombardia dice non ci stiamo. Comunque Margherita De Bac racconta pagina 18, così Libero a pagina 15, vaccino obbligatorio in nidi e materne, questo è quello che punta, a cui punta il governo, chissà se ci sarà questo tipo di intesa. A proposito di esperimenti, invece, voglio, esperimenti nel senso tentativi di accordo, voglio lanciarvi questa segnalazione di Giuliano Aluffi sul quotidiano Repubblica, riguarda un esperimento sociale che in Islanda funziona molto bene. E voi dite, ma l'Islanda è lontana, diversa culturalmente, ma dall'Islanda stanno cercando di portarlo anche, lo stanno sperimentando i quindicenni di Santa Severina, piccolo borgo di 2000 anime in provincia di Crotone, dunque siamo in Calabria. Dall'Islanda alla Calabria, così battiamo droga e alcol. Ebbene, in Islanda hanno sconfitto le dipendenze, o ridotto le dipendenze da tabacco, cannabis e birra tra gli adolescenti. Come? Beh, con un metodo molto semplice. Coprifuoco per gli under 16 oltre le ore 22, che viene esteso negli orari estivi alle 24, a mezzanotte. Questa è la prima regola e, dati alla mano, i risultati sono straordinari. Calo degli episodi di ubriachezza giovanile del 42% dal 98 al 5% odierno. Riduzione del fumo quotidiano dal 23% di giovani che fumavano nel 98 in Islanda al 3% di oggi. Caduta del consumo di cannabis, era il 17% nel 98, ora al 7%. Ebbene, a Santa Severina, paesino dove il 28% dei ragazzi al primo incontro con l'alcol a 14 anni e il 63% si è ubriacato almeno una volta, oltre il doppio della media europea, stanno sperimentando questo metodo islandese. Repubblica racconta dall'Islanda alla Calabria, così battiamo droga e alcol, a pagina 25, la prima regola, appunto, il coprifuoco per gli adolescenti. Invece, signori, che gli è preso a questo ex vigile urbano di Milano? È stato arrestato ieri, una notizia di cronaca che fa sorridere ma non troppo, ne racconta La Stampa e anche Il Giorno con mezza pagina, leggo dalla Stampa Simone Gorla, era una coppia, lui vigile, lei la compagna, lui ex vigile, vigile in pensione a Milano, ricoperto di encomi, ricoperto di elogi, poi quando è andato in pensione qualcosa gli è scattato, forse un po' di rancore maturato negli anni, un po' di livore, si è attaccato alla TV, ha cominciato a vedere i talk show, i politici che giudicava che facevano qualcosa di male, i VIP da punire. E cosa faceva questo vigile? Prendeva gli indirizzi di casa e spediva lettere, buste o meglio, con dentro carta igienica sporca di feci. In questi anni ha spedito almeno 10.000 lettere. La coppia che minacciava i VIP con lettere anonime a raffica. Arrestato, dice, mi ispiravo a Jacopo Fo, il figlio di Dario Fo, che raccontò in uno spettacolo quando durante una rivolta i nobili rifugiati in un castello vennero attaccati dagli insorti con tonnellate di letame fino a costringerli alla resa. E allora questa metafora del guitto ha ispirato questo ex vigile urbano che ha spedito 10.000 lettere. L'hanno beccato con altre 110 lettere pronte per essere spedite, una montagna di carta igienica, anche una montagna di... diciamolo francamente, in casa le ha spedite a tutti, anche al direttore dello zoo di Copenaghen perché ha ucciso la giraffa Marius, Evelina Cristellin, presidente della Fondazione Museo Egizio, che dice è finito un incubo, in questi due anni è stato un inferno, immaginate, ricoperta di... vabbè. E soprattutto ce l'aveva con i politici ladri, questo vigile, i politici ladri, denunciato a Milano, raccontano i carabinieri che quando sono arrivati a fermarlo, a arrestarlo, quasi si è sentito liberato da questa ossessione che lo aveva inglobato. Ma siamo all'articolo che mi fa più della giornata. Ci risiamo. Paese superstizioso. Qualcuno potrebbe dire paese medievale, e da parte mia non c'è nessun attacco alla religione, che è una cosa importante nella sfera privata di ognuno di noi, se la ritiene importante, ma l'articolo di Libero che dedica mezza pagina a Monsignor Renato Boccardo, che è l'arcivescovo di Spoleto Norcia, che ha proclamato la necessità di penitenza e digiuno. E voi dite perché? Penitenza e digiuno perché Dio calmi le forze della natura. Si calmino, sia restituito alle nostre popolazioni un tempo di serenità e di pace. In Abruzzo Dio calmi la natura. Non è possibile una roba del genere, vergognatevi cazzo. Alessandro Milan, il Bob Marley dell'informazione. Get up, stand up. Stand up for your right. Mi volete provocare allora? Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Devo fare un annuncio, la rassegna stampa per oggi è sospesa e continuano i programmi di Radio 24 così. Preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. Lo so, sarebbe molto meglio e vi vedo ballare nelle vostre lattine con quattro ruote, lamiere con quattro ruote, i vostri contenitori, forza! Get up, stand up. Stand up for your right. Però insomma sono pagato per fare la rassegna stampa, non per mettere sui migliori di Bob Marley. Grazie. Allora devo purtroppo rientrare a parlare di queste cose. Intanto l'Europa che è in prima pagina sui giornali, perché tutti i quotidiani raccontano uno scontro vero e proprio. E vedete qua il titolo di pagina 8 del Corriere: scoppia il caso terremoto tra Italia e Bruxelles. La questione sono, già ci imputano lo 0,2 di sforamento del PIL, quindi sono 3 miliardi e 400 milioni da recuperare. Moscovici dice queste spese fuori dal negoziato. Però che succede con l'Europa? Beh, Alberto D'Argenio in prima pagina di Repubblica racconta che l'Italia ha un piano B. E questo piano B sarebbe addirittura sfidare l'Europa, non fare la manovra correttiva da 3,4 miliardi come ci chiedono, subire la procedura di infrazione per il mancato rispetto della regola del debito. Questo perché? Questo se si vota a giugno. Guardate il titolo, Europa al piano B del governo, no alla manovra se il voto è a giugno. L'Italia riflette se sfidare l'Europa ai mercati, così inizia l'articolo Alberto D'Argenio. C'è la consapevolezza di Piercarlo Padoan, atterrato ieri a Bruxelles per prendere parte all'Eurogruppo, in questa trattativa tra Nazareno, Palazzo Chigi, Nazareno dunque la sede del PD, Palazzo Chigi, cioè Gentiloni, e Tesoro, il ministro del Tesoro, sta emergendo la possibilità di far saltare il tavolo e non intervenire sui conti e magari impostare una campagna elettorale proprio sul no all'Europa e con diversi miliardi da spendere una volta sfondati i parametri dell'Unione Europea, specialmente se le elezioni si terranno a giugno. Sarebbe uno scenario, a modo di vedere, clamoroso, che ci porrebbe di fatto fuori dalle regole europee. Chissà se è, come dire, una forzatura giornalistica o se davvero si pensa a questo. Anche perché oggi è tutto un racconto di quando si può andare a votare, di quando si potrebbe, di quando si dovrebbe, di quando non si dovrebbe, di con quale sistema elettorale bisogna andare a votare, maggioritario o no, proporzionale. È tornata la politica chiacchierata. E allora, nel profluvio di articoli che trovate su questo tema, vi voglio segnalare intanto il dibattito su Ma Gentiloni cosa fa? Secondo Fabio Martini, pagina 3 della Stampa, la linea di Gentiloni è questa: avanti con dignità ma niente barricate. Gentiloni ha deciso di vivere la inattesa stagione a Palazzo Chigi, come dice lui, col massimo della dignità possibile nella cura e nella preparazione dei provvedimenti e nello stile di governo. Nell'ultimo Consiglio dei Ministri i suoi colleghi sono rimasti spiazzati quando ha chiesto a tutti cosa pensassero su una misura che riguardava la scuola elementare. Collegialità ma anche valorizzazione delle competenze di ognuno, questa è la discontinuità forte rispetto a Renzi. Ma è un Gentiloni che sa di avere, come dire, i giorni contati. A fianco a questo articolo di Fabio Martini c'è quello di Carlo Bertini, retroscena: Renzi ha già in mente la data in cui si potrebbe andare a votare, 11 giugno, e blinda le liste del PD spaventando i bersaniani. Gli si attribuisce questa frase: vediamo quanti voti prende Gotor. Sapete che la personalizzazione dello scontro è sempre stata una delle cifre di Renzi, ora se la prenderebbe in questa retroscena con Gotor. Secondo Libero, in realtà, racconta Elisa Calessi a pagina 2, non è che Gentiloni attende con dignità, è che proprio c'è un patto con Renzi. Gentiloni si dimetterà, c'è un patto con Renzi. Quello che tutti escludono è un voto di sfiducia del Parlamento. E allora, racconta Libero in questo retroscena, l'ipotesi più probabile è che il premier Gentiloni si dimetta d'accordo con Renzi, con la motivazione che, riconsegnata al Paese la legge elettorale utilizzabile, è esaurito il compito del governo. Se non si dimette Gentiloni, ci sono 5 ministri pronti a dimettersi: Boschi, Lotti, Poletti, Madia e Calenda. Se nemmeno questo andasse a buon fine, c'è la strada della direzione. Renzi si riunisce, la riunisce e fa votare sul fatto che il compito del governo è concluso. Questi sono scenari politici, teneteli poi così, tanto. Tutte le analisi che con questa legge elettorale non ci sarà un vincitore, la CEI con i vescovi che striglia la politica dicendo fa male il suo mestiere visto che i giudici la sostituiscono con la Corte Costituzionale, tutti analizzare l'effetto consulta della legge per cui nessuno vincerebbe a questo punto, maggioranza impossibile, è uno scenario politico abbastanza confuso per usare questi termini. Tra l'altro, talmente confuso che non è che se si va a livelli comunali è meglio. Soprattutto Roma tiene ancora banco, il comune di Roma. La prossima settimana l'interrogatorio a Virginia Raggi, e raccontano alcuni articoli interessanti che vi segnalo. Uno, Fiorenza Sarzanini, pagina 5 del Corriere della Sera, nella chat, la famosa chat, quattro amici al bar tra la Raggi, Marra finito in carcere, Romeo e il vice sindaco Frongia, si evince da questa chat che ci sarebbero stati almeno due incontri tra Marra e Di Maio, vicepresidente della Camera e uomo forte, uno degli uomini più importanti del Movimento 5 Stelle. Nella chat ci sarebbe traccia di almeno altri due incontri rispetto a quello emerso finora, cioè a luglio. Altri due incontri, uno ad agosto, e soprattutto anche tracce di consultazioni per la scelta di tutti gli incarichi proprio con Di Maio. Dunque nuove polemiche su Di Maio, anche se Grillo ha smentito, sono state smentite la telefonata in cui si è detto molto arrabbiato con Virginia Raggi. Io sono vicino a Virginia, ha rispettato il codice etico. La Raggi che dice ormai mi accuseranno anche di omicidio. C'è questo titolo anche però della Stampa di prima pagina: mi hanno imposto quelle nomine. Ecco, anche questo si leggerebbe nella chat. Le nomine di Minenna, ex assessore al bilancio, e Raineri sono imposte, ma il sindaco sono io. A parlare nella chat è Virginia Raggi, che dunque sarebbe eterodiretta, sarebbe commissariata. Questa è l'accusa poi della Stampa. Vabbè, settimana prossima sarà una settimana un po' calda per il Movimento 5 Stelle, per il Comune di Roma e il suo sindaco. In tutto questo, caro Mauro Meazza, come va? Oh, buongiorno Alessandro, volevo fare una richiesta per una dedica. Sì, va bene, da potete Mauro Meazza, attenzione, la dedica di Mauro Meazza. Ecco. A chi vuoi dedicarla, Mauro Meazza? Stai attento. Ho chiesto proprio attento. No Milan, no Cry, che mi sembrava in tema questa mattina, perché sei veramente... No, avete cominciato voi, devo dire, quasi gli ascoltatori. Senti, un attimo, un minuto di cose serie, le privatizzazioni. Sì. Perché cose serie, perché tu sai che potrebbero essere molto utili anche per questo bisogno di danari che, come ci viene dalle richieste europee, non solo. Allora, hai già ricordato la nostra apertura, probabile privatizzazione nel corso dell'anno per Poste e anche per le Frecce, l'alta velocità delle ferrovie. Staremo a vedere, oggi ne riferiamo con ampio tratto a cura di Laura Serafini proprio in pagina 3. Ti ricordo caro Alessandro, che se ti scrive il fisco, sì, io rispondo. Dice, più che altro molti hanno ricevuto una lettera e pagato, perché si è appreso proprio ieri, e ne riferiamo in norme tributi, che ci sono stati 400 milioni di gettito dalle lettere di compliance. La compliance che non è un album di Bob Marley, ma appunto un adeguamento spontaneo. Ma per come quanto... titolo, compliance. Compliance mi sembra un bel album, forse lo useremo per i chapter 11. Compliance. Ecco, poi ti voglio dire anche, sempre in norme tributi che tu leggerai, come sempre, religiosamente si sa. E qui poi il caso c'entra, perché parliamo delle norme sulle unioni civili, le ultime appunto varate per l'attuazione, che danno efficacia ai matrimoni che sono stati contratti all'estero, quindi poi diventano da noi unioni civili, sono attese in Gazzetta Ufficiale queste norme proprio nella giornata di oggi. Quindi stai attento alla Gazzetta Ufficiale, invece domani devi leggere avidamente Plus, devi leggere domani il settimanale del risparmio, mi raccomando. Visto che tu ti occupi di letture e lettori, mi sembra interessante segnalarti quanto puoi trovare in norme e tributi. Da una parte, certo, i consumi non vanno benissimo, anzi diciamo che sono un po' fermini, sono cresciuti dello 0,8 su novembre, ma in realtà sul mese precedente sono in calo, quindi un dato un po' così. Compra, spendi. Intanto sicuramente diciamo leggi, perché i lettori, si apprende nella stessa pagina di Imprese e Territori, sono in calo del 3,1%, anche se il settore comunque dei libri ha avuto una ripresina. E poi ti voglio segnalare, ma questo puoi dirlo forse anche al piccolo Mattia, copiare il compito è plagio. Quindi se tu copi il compito, no, in questo caso si trattava di un esame di Stato, certo non di un compito delle elementari, però copiare il compito è stato spiegato, è plagio, non è falso ideologico. Questa precisazione puoi apprenderla nelle pagine di norme tributi. Ti sei segnato giovedì 2 febbraio? Sì, te l'hai fisso. Ma bravo, mi piace quando sei così reattivo. Allora io adesso me ne vado, ti faccio tanti cari auguri. Grazie, per quanto riguarda la domenica calcistica naturalmente, e ripeto la mia richiesta, No Woman No Cry, vorrei dedicarlo alla Fusconi, perché nessuno mai si ricorda di lei, tutti parlano di Nespoli. Grande, e del caffè, ma invece Fusconi. Io vorrei fare proprio una dedica. Viva la Svizzera. Traffico. Lino Milan, il biondo dell'informazione che fa impazzire il mondo. Quante esagerazioni. Allora, alle 7:50 minuti, per concludere la politica, c'è Berlusconi un po' in difficoltà perché è di nuovo indagato. Si è scoperto, secondo la procura di Milano, che paga ancora 4 giovani. Famosa vicenda delle olgettine, quindi così racconta il Corriere della Sera in maniera sobria, mentre Libero la mette così. La gnocca mette ancora nei guai Silvio, indagato. Però forse la notizia più importante di Berlusconi è che fa una chiacchierata con il direttore del Foglio Claudio Cerasa, una chiacchierata eterna, 2 colonne in prima pagina e un'intera pagina a 4 del Foglio. Le mie condizioni per andare al voto, leggo qui e là da alcune dichiarazioni e delle tante che rilascia al Foglio Silvio Berlusconi. Intanto, sulla legge elettorale, io chiedo una legge elettorale proporzionale per vincere nell'ambito del centrodestra. Sull'ipotesi di un collegamento e una unione tra Movimento 5 Stelle e Lega, mi fa sorridere e inorridire l'ipotesi. Se dovesse accadere sarebbe la fine politica di entrambi. Io credo che la Lega sia parte integrante del centrodestra e come tale si comporterà. I leghisti che ho conosciuto in 20 anni sono persone serie. Poi parla di Trump, condanna il suo protezionismo che nella storia non ha mai funzionato proprio perché è il contrario del libero mercato, dice Berlusconi. E poi, vabbè, sarà fantascienza, ma l'intervista si conclude su Renzi. Dice di lui: Renzi di nuovo a Palazzo Chigi? Beh, è il leader del suo partito, non c'è nulla di strano nel fatto che se vince le elezioni guidi il partito. Naturalmente deve essere in grado di raccogliere una maggioranza nel PD in Parlamento, ma soprattutto chiude con questa, non si sa se provocazione, Berlusconi la mette anche come fantascienza, però dice: beh, se Renzi un giorno decidesse di diventare moderato, lasciasse il PD e chiedesse di iscriversi a Forza Italia, immagino che non mi opporrei. In fondo è giovane, ha tempo per ricredersi e per correggersi. Così Silvio Berlusconi. Va bene, c'è tutta la questione della giustizia. A me pare abbastanza incredibile. Il sindacato dei magistrati, la NM, ha disertato la inaugurazione in Cassazione, inaugurazione durante la quale il primo presidente di Cassazione Giovanni Canzio ha anche fatto una reprimenda dicendo che ci vogliono più controlli sulle indagini. Spesso ci sono delle indagini mediatiche, cioè per finire sui giornali o in TV, ma soprattutto mi ha colpito insomma, la segreteria dell'ANM e l'Associazione Nazionale Magistrati e il Sindacato ha disertato questa inaugurazione perché per protestare contro il governo, per la questione delle pensioni, perché insomma il governo ha deciso che alcuni magistrati hanno la deroga per andare in pensione a 72 anni e non tutti come vorrebbero i magistrati, gli altri a 70, gli alti magistrati a 72. È una cosa indecente, insomma, forse è indecente l'idea di 72. O è indecente l'idea di considerare i magistrati in modo diverso rispetto agli altri italiani, però ognuno ovviamente la vede in modo diverso. Siamo qui. A proposito di giustizia, mi ha colpito questa notizia che trovate, è di cronaca, la trovate solo sul Corriere della Sera, come capita spesso a Luigi Ferrarella, scovare cose molto interessanti. Pagina 20, ricordate la vicenda di Carlo Lissi, forse non vi dice molto il nome, ma vi dice il fatto: uccise la moglie e poi andò a vedere la partita di calcio dei mondiali. Avvenne in provincia di Pavia. Ebbene, è stato condannato all'ergastolo in primo grado e Carlo Lissi ha fatto una mossa, davvero, racconta Ferrarella, sembra non avere precedenti, ha scritto ai magistrati dicendo: ho ucciso moglie e figli, tra l'altro, Non voglio l'appello, l'ergastolo è giusto. Rinuncio all'appello, ritengo congruo l'ergasto inflittomi. Chiedo scusa per la perdita di tempo, resto fiducioso di un vostro parere favorevole. Chiede così di rinunciare all'appello, uccise moglie e figli, scrive ai giudici l'ergastolo è giusto. E la Corte ha accolto la richiesta. Luigi Ferrarella lo racconta, pagina 20 del Corriere della Sera. Siamo in chiusura, la carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, eccolo qui, è una pagina della verità. Pagina 17, non so se Peter hai anche un effetto sonoro, è l'ultima ossessione, drogarsi di rumore del phon. Questo suono rilassante, c'è chi lo registra, ci sono gruppi su YouTube, tendenze diffuse, gente che passa ore e ore a ascoltare il suono rilassante. Ma sto già diventando isterico, del phon. Ma chi se ne frega!